2024 2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, il nostro programma va in onda come sempre il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14 e sempre in podcast. A proposito del podcast, come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente attraverso le app per il vostro smartphone, ma anche attraverso i programmi che ci sono sul computer o andando direttamente sul nostro sito internet www.radio24.it. Una domanda che faccio sempre ai nostri ascoltatori che ci ascoltano in podcast è: quando ascoltate o riascoltate 2024? E c'è una piccola classifica che sto facendo in base alle risposte che mi inviate al nostro indirizzo di posta elettronica. Allora, al primo posto c'è lo sport, quindi gli ascoltatori di 2024 fanno molto sport e ci ascoltano quando corrono o quando fanno attività sportiva in generale. Seconda attività per ascoltare 2024, seconda classificata, il trasferimento casa-lavoro-lavoro-casa oppure casa-luogo di studio, che è prevalentemente l'università, ma non solo l'università. Terza classificata come attività di riascolto di 2024, di ascolto di 2024, è quando si fanno i lavori di casa, pulizie di casa, quando si mette in ordine in giardino, nel garage, insomma cose di questo tipo. Poi ci sono anche altre attività, ma non sono salite sul podio. Allora, prima delle nostre digital news iniziamo con due notizie molto importanti. Allora, una riguarda casa nostra, ma la diciamo tra poco. L'altra arriva dagli Stati Uniti e si inserisce nel grande dibattito verso la costruzione di nuove regole per l'automobile a guida autonoma. Dunque, sapete che ci sono investimenti, uno dei grandi megatrend, ci sono investimenti incredibili, molto elevati per la costruzione di un ecosistema che ci porterà ad un'automobile a guida autonoma. Allora, Google aveva scritto al National Highway Traffic Safety Administration, che è la massima autorità negli Stati Uniti in tema di sicurezza stradale, e questa authority ha risposto ad una domanda specifica, cioè come va considerato il software. La risposta è molto semplice, ma apre tutta una serie di scenari ed è considerata molto importante nel settore. Allora, questa autorità ha stabilito che il sistema di intelligenza artificiale che guida l'automobile, quindi di fatto il software, può essere equiparato ad un guidatore, quindi ad un pilota. Allora, fino ad oggi, se facciamo un incidente, la colpa è nostra, non del produttore del veicolo. Allora, in questo caso, visto che le regole andranno costruite, questa risposta potrebbe lasciar pensare che, ad esempio, la responsabilità è in capo a chi ha creato il software, quindi a chi ha creato l'automobile. Vedremo, ma è comunque molto molto importante. Dunque, la notizia di casa nostra riguarda il grande tema, il grande progetto di costruzione di una rete a banda ultralarga in Italia. Allora, la conferenza Stato-Regioni, dopo aver litigato per un po', ha trovato un accordo per la distribuzione di 3 miliardi di euro che verranno utilizzati nelle zone a fallimento di mercato per posare fibra ottica. La notizia riguarda molta della popolazione italiana, perché i comuni interessati sono 7.300 e questa rete sarà di proprietà pubblica, suddivisa fra Stato e Regioni proporzionalmente alle risorse impiegate. Comunque è una buona notizia, è un piccolo passo di un processo molto molto lungo che coinvolge non solo lo Stato, non solo le Regioni, ma anche l'industria, perché naturalmente di fronte a questo grande progetto alcuni equilibri dovrebbero cambiare. C'è chi sta lavorando di fatto contro i cittadini, contro lo Stato e contro il mercato per cercare di mantenere certi equilibri che non hanno fatto certo bene al mercato fino ad oggi. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda l'Italia, ma arriva dagli Stati Uniti. Amazon Web Services, che è la divisione di Amazon che si occupa di cloud e di storage, ha annunciato di avere acquisito la software house italiana Nice. L'azienda ha detto che continuerà ad operare con il proprio marchio, la sede e il centro ricerche rimarranno ad Asti. Nice, che fattura 4,5 miliardi di euro, è specializzata in software per il calcolo e la progettazione in cloud. Digital News. Un'altra acquisizione riguarda la norvegese Opera, che è famosa per il programma di navigazione per il browser Opera, Opera. Allora, sta valutando un'offerta d'acquisto ricevuta da un consorzio di compagnie internet cinesi che sono pronte a mettere sul piatto 1,2 miliardi di dollari. Digital News. Netflix ha annunciato di avere completato, dopo 7 anni di lavoro, la migrazione sulla piattaforma cloud di Amazon. In gennaio è stato chiuso l'ultimo data center da cui veniva erogato lo streaming video e quindi adesso è tutto in outsourcing sulla piattaforma di Amazon. Secondo quanto dichiarato dalla società, in questo modo il servizio raggiunge una disponibilità del 99,99%, quindi praticamente non si pianta mai. La riduzione dei costi non è stata la ragione principale per passare al cloud, però poi a conti fatti Netflix ha detto c'è stata una riduzione di costi, quindi anche questo è sicuramente un risultato positivo. Digital News. Secondo i dati di Nielsen, nel 2015 il mercato della pubblicità è cresciuto dell'1,7% rispetto al 2014, e qui parliamo del mercato italiano della pubblicità in generale. Però dove sta la notizia che ci interessa? Perché è cresciuto grazie alla pubblicità su web, principalmente search e social, quindi motori di ricerca e social network. Cioè, se non ci fossero Google e Facebook, il mercato pubblicitario, ma il mercato pubblicitario in generale, sarebbe in calo. La sola componente internet è cresciuta dell'8,5%, ma escludendo il mondo search e social, la performance del web farebbe meno 0,7%. E continuo a dire, questo è un motivo di riflessione profonda che il mondo della pubblicità, certo, sta facendo, ma secondo me bisognerebbe preoccuparsi un po' di più. Comunque. Digital News. Parliamo di automobili, non a guida autonoma, quelle che ancora si guidano dalle persone, e parliamo di auto elettriche. Allora, mentre Tesla ha confermato che Model 3, cioè la prossima auto elettrica del produttore americano, sarà sul mercato dal prossimo anno e tra poco si potrà prenotare, avrà prezzi a partire da $35,000, che è un prezzo molto interessante perché poi soprattutto negli Stati Uniti ci sono molti incentivi che abbassano di molto il prezzo, e comunque è un segnale di prezzi in ribasso. Allora, mentre Tesla annunciava tutto ciò, General Motors GM ha annunciato che la Chevrolet Bolt sarà venduta anche in Europa. A partire dal 2017 avrà il marchio Opel e si chiamerà Ampera E. La Bolt è un'auto solo elettrica molto attesa negli Stati Uniti, se ne è parlato molto. Dovrebbe avere un prezzo di $35,000 e un'autonomia di 320 km. Dunque, in occasione della giornata mondiale della radio, che si festeggia ogni anno il 13 di febbraio, facciamo il punto sullo sviluppo della radio digitale in Italia, che è, per quanto riguarda il mondo broadcast, il futuro della radiofonia. C'è tra l'altro una notizia recente che riguarda la decisione dell'Autorità per le Comunicazioni di estendere le aree dove possono partire le trasmissioni digitali. Allora, ricordiamo che la radio digitale, conosciuta anche come DAB o come Digital Radio, è un nuovo sistema di trasmissione su nuove frequenze. Per ricevere questi programmi è necessario avere un nuovo tipo di ricevitore, sia in casa che in automobile. Io dico sempre che la prossima automobile che uno acquista deve avere la Digital Radio. Ormai ci sono molti modelli che ce l'hanno di serie, ma io andrei dal concessionario e direi: o mi regali la digital radio, oppure se nel caso sia optional e non me la regali, ti lascio l'automobile, cambio marca e cambio modello, perché al produttore costa anche molto poco e non capisco perché una cosa del genere con un chip che costa veramente pochi dollari venga fatta pagare in alcuni, solo in alcuni modelli di fascia molto alta, alcune centinaia di euro. Su molti modelli l'optional è di un centinaio di euro, che certo è abbastanza abbordabile quando uno spende 20.000 euro per l'automobile, però proprio per questo motivo io direi al concessionario: ti do 20.000 euro, beh, regalami la digital radio, se no la macchina te la tieni. Allora, parliamo di queste novità. Abbiamo parlato con Sergio Natucci, che è il direttore operativo del Club DAB Italia, che è il consorzio che irradia il segnale di, anche di Radio 24 in buona parte dell'Italia. Allora, le aree sono quelle del centro-sud, territori molto importanti come il Lazio, l'intera regione Campania, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, corrispondono a circa il 26-27% della popolazione, che sommato alle altre aree già pianificate si raggiunge quasi il 43% della popolazione italiana. È un balzo in avanti molto importante, riguarda soprattutto le emittenti locali, perché i due operatori nazionali hanno un'autorizzazione provvisoria per tutto il territorio, oltre ovviamente nelle zone pianificate. Questo apre la possibilità probabilmente a circa 150-170 stazioni locali che potrebbero cominciare a diffondere i loro programmi in tecnica digitale, in DAB+. Se noi guardiamo all'area e quindi alla popolazione già coperta dai servizi oggi, indipendentemente dalle autorizzazioni, indipendentemente dalla pianificazione che è stata decisa dall'autorità, a che livello siamo arrivati se parliamo di radio digitale? Ma le grandi stazioni nazionali, attraverso i loro due operatori di rete, Eurodab e Cladab Italia, superano ormai il 70% di copertura della popolazione, quindi in ricezione esterna, con più di 5.000 km di autostrada servita. Nel caso del Cladab Italia, a cui partecipa anche Radio 24, la copertura è anche integrata da servizi indoor, cioè domestici, ricevibili in casa nelle grandi città, da Torino a Milano, a Firenze, a Roma, a Napoli, per citare quelle più grandi, poi ce ne sono molte altre. Quindi diciamo che, a nostro avviso, ma credo che sia, come dire, accettato, si è ampiamente superato il punto di non ritorno. Adesso si tratta di consolidare questo tipo di servizio e il mercato che è adesso connesso. Che cosa si trova oggi sul mercato, sia per quanto riguarda le automobili, quindi le autoradio, che possono ricevere i segnali in qualità digitale, ma anche altri strumenti che sono tipicamente radio, che io posso mettere in casa, come tu hai ricordato, in molte grandi città, nella maggior parte delle grandi città i servizi sono disponibili anche all'interno dei muri, come si dice, indoor, quindi non solo outdoor. Allora, per quanto riguarda il settore automobilistico, ormai in Italia non esiste un brand, una macchina, una marca automobilistica che non offra l'autoradio, la digital radio, l'autoradio DAB sulle vetture. Ovviamente si distinguono poi fra auto che l'hanno di serie o standard, oppure in optional. Attualmente a noi risultano 60 modelli di auto, alcuni anche di fascia molto popolare, le cosiddette utilitarie, che hanno il DAB di serie. Adesso stiamo attendendo il Salone di Ginevra, dove forse potrebbero esserci alcune grandi novità che riguardano le famose utilitarie, cioè le macchine del segmento più popolare, più vicino alle esigenze di tutti noi. Questo il mercato automobilistico. Noi stimiamo che siano ormai ben oltre i milioni, intorno ai 2 milioni le auto in circolazione con un autoradio DAB, mentre i ricevitori casalinghi, domestici, le radio tradizionali che teniamo in cucina, in camera, nello studio, il venduto attualmente in Italia dovrebbe essere intorno alle 500.000 radio. Dunque, per completare il quadro, va detto che la Norvegia ha deciso che da gennaio 2017 comincerà a spegnere l'FM, quindi abbandona l'analogico per passare completamente alla radio digitale. Nel corso del 2017 tutti gli impianti FM verranno spenti. La Svizzera è un'altra nazione che ha preso una decisione analoga, perché dal 2019 verranno tolte le sovvenzioni all'FM, e visto che la Svizzera è piuttosto complicata da coprire, il business model delle radio senza sovvenzioni per l'FM non sta in piedi, quindi tutti chiuderanno gli impianti, comunque una buona parte delle radio in FM, in analogico, spegnerà le frequenze per passare completamente al digitale, e già oggi la Svizzera è coperta praticamente ovunque in digital radio. Poi discussioni analoghe le stanno facendo in Germania e in Gran Bretagna. Probabilmente la più vicina a spegnere l'FM è la Gran Bretagna, dove la stragrande maggioranza dell'ascolto è già fatto, già avviene in digital radio, in DAB. E poi ovviamente, parallelamente alla diffusione della radio digitale broadcast, così come la conosciamo oggi, ma in tecnica digitale, quindi con dei segnali digitali, si affermeranno, cresceranno sempre più strumenti, soprattutto in automobile, per connettersi ad internet e ascoltare la radio via internet. Ma non si può trasferire tutti i 40 milioni di ascoltatori che ogni giorno ascoltano la radio tutti il giorno e tutti contemporaneamente, soprattutto alla mattina, quasi tutti contemporaneamente ascoltano la radio su internet in streaming, perché internet si pianterebbe. Ci sono studi a tal proposito che vengono effettuati, e insomma i due sistemi viaggeranno in modo parallelo. E poi ci sono anche tutta una serie di vantaggi, di garanzie di servizio per il broadcast anche in momenti di emergenza, quindi è sicuramente uno strumento che verrà utilizzato in tutta Europa, perché poi in altri paesi, soprattutto negli Stati Uniti, ci sono altre tecnologie, sempre broadcast, anche via satellite, ma hanno preso strade un po' diverse. La radio digitale, così come la conosciamo oggi, invece viene utilizzata anche in Asia. Adesso cambiamo argomento, parliamo di realtà virtuale. Allora, c'è molta attesa per l'arrivo sul mercato di Oculus Rift, che in Europa costa 699 euro più spese di consegna. Al momento è possibile preordinarlo, e poi in base all'affollamento delle richieste bisognerà vedere quando arriverà. Comunque le consegne sono previste le prime consegne tra marzo e aprile. Allora, una delle richieste che vengono fatte sul sito dove si può preordinare questo prodotto è: make sure your Windows PC is Rift ready, cioè assicurati che il tuo PC funzioni con Oculus, perché questo è uno dei temi di cui si discute, cioè la potenza del computer per fare funzionare questi visori per la realtà virtuale. Allora, proprio nei giorni scorsi Oculus ha pubblicato le specifiche, i requisiti minimi dei PC che devono pilotare questi visori, e è stato pubblicato anche una lista, una selezione dei primi computer creati apposta per Oculus. Allora, sono macchine molto potenti, soprattutto dal punto di vista grafico. Sono prodotte da Asus, da Alienware e da Dell, con prezzi che partono dai $1,000 circa. Allora, questa settimana Nvidia, che è il leader mondiale nelle schede grafiche, soprattutto per i videogiocatori nel mondo consumer, ma poi a livello professionale per mille applicazioni che richiedono calcolo molto potente, allora ha organizzato una dimostrazione di cosa si può fare con questi visori di realtà virtuale, ma anche per sottolineare che questi visori hanno bisogno di potenza di calcolo. Ora facciamo un breve ricapitolo di quello che sta succedendo. Allora, oggi sul mercato ci sono alcuni visori all'interno dei quali si può mettere uno smartphone, ad esempio come i Samsung VR, Oculus VR. Allora, questa è una prima soluzione per poter godere della realtà virtuale. Uno guarda dentro a questi visori, che hanno due lenti che rendono l'immagine stereoscopica, tridimensionale, ti avvolge, tu ti puoi girare a destra e a sinistra, su e giù, e continui a vedere questo mondo virtuale che appare davanti ai tuoi occhi. un passo in avanti è stato fatto con l'arrivo di questi visori Oculus, che arriverà sul mercato a breve, e HTC Vive, che è il prodotto concorrente di Oculus. HTC si sta buttando in maniera molto decisa sulla realtà virtuale. Allora, questi visori hanno invece una caratteristica diversa: devono essere collegati ad un computer. L'immagine è sicuramente molto più affascinante, molto più veloce, fluida. Si possono avere o videogiochi o immagini di altro tipo veramente eccezionali, molto coinvolgenti, ma dietro ci vuole una potenza di calcolo molto molto forte. Quindi uno indossa con un caschetto questi visori e poi si gira, se uno lo guarda dall'esterno sembra un cretino, perché uno si muove essendo nella realtà virtuale, ma quelli che stanno fuori mica vedono dove ti trovi, perché solo tu vedi dentro questo visore. E ci sono videogiochi, anche esperienze, ho scalato l'Everest questa settimana. Tra l'altro, la realtà virtuale è così ben fatta e mi verrebbe da dire così reale che a volte si ha hanno alcune sensazioni tipiche di alcune cose che si fanno nella realtà, che se uno va sulle montagne russe scende che ha un po' qualche giramento di testa. Adesso se uno fa alcune cose con la realtà virtuale succede la stessa cosa, perché devo dire che già oggi siamo alla prima generazione, gli strumenti sono molto ben fatti. Comunque abbiamo parlato di varie cose di realtà virtuale con Lars Weinand, che è esperto di virtual reality di Nvidia, che ho incontrato questa settimana. First, the difference is the quality of the virtual world. So depending if you want to have it real, like virtual reality, then you need a very high-end graphics card as well as a graphics engine to render it photorealistically. Allora, la prima differenza, ci dice Weinand, con i visori che possono utilizzare solo lo smartphone, invece questi nuovi visori e la qualità del mondo virtuale. Se vuoi una vera esperienza di realtà virtuale, beh, allora hai bisogno di una scheda grafica molto potente, compreso un motore grafico per riprodurre immagini in modo molto realistico. We talk about you need 7 times the performance to drive a VR headset compared to a normal 1080p full HD screen in gaming, because you render two images at the same time for the left eye, one for the right eye, and you have to render them at 90 frames per second. Se vuoi avere una buona visione, ad esempio, di un gioco di oggi, attuale, in realtà virtuale, è necessaria una potenza 7 volte maggiore per pilotare un visore di questo genere rispetto a quella necessaria per vedere lo stesso gioco su un display in alta definizione. E questo perché devi creare due immagini, una per l'occhio sinistro, una per l'occhio destro, e la devi creare a 90 frame al secondo rispetto ai 30 frame di un gioco normale, e questo affinché le immagini siano fluide e non diano la nausea. Questo è il motivo per cui devi avere un computer molto potente, diciamo con una GTX 970, che è una scheda grafica di Nvidia. Con un computer così puoi usare senza problemi sia Oculus che HTC Vive. Un'altra cosa interessante che mi ha detto Lars Weinand è che Nvidia si attende uno sviluppo molto interessante sui controller. Oggi quello che si fa in realtà virtuale lo si fa essenzialmente con delle specie di telecomandi che uno tiene in mano, e ad esempio se uno deve salire su una scala in questo mondo virtuale o deve impugnare un'arma, lo fa schiacciando i tasti di questi controller. Ma da questo punto di vista, secondo Nvidia, ci saranno molte novità. Adesso cambiamo nuovamente argomento, parliamo di ristorazione e mondo digitale. Allora, la ristorazione è uno degli ultimi settori del commercio ad essere stato coinvolto nei processi di digitalizzazione, e oggi i consumatori, non solo nelle grandi città, ma in buona parte delle città anche in Italia, possono scegliere via internet fra tanti piatti da farsi consegnare a casa o in ufficio. La consegna della pizza a domicilio è una delle attività più vecchie e popolari di questo settore, in qualsiasi parte d'Italia, direi così, ma oggi internet trasforma molte cose e secondo me questo è un fenomeno molto interessante e da cui si può prendere spunto sia per chi lavora nel settore ma anche per settori limitrofi. Daniele Contini è il country manager di Just Eat. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi siete una piattaforma digitale per far arrivare a casa non solo la pizza, una serie di altri cibi che noi ci gustiamo poi in casa o in ufficio. Naturalmente, insomma, la consegna a domicilio può arrivare anche nell'ufficio. Che cosa significa piattaforma digitale di, i tecnici dicono o gli esperti dicono, food delivery? Comunque noi lo diciamo, consegna a domicilio del cibo. Ma diciamo che nel concreto Just Eat è un servizio oggi disponibile su web, quindi un sito internet e tramite applicazione, tramite il quale le persone possono ordinare cibo a domicilio da una vasta lista di ristoranti disponibili in tutte le principali città italiane. Quindi è un sistema che mi consente di poter selezionare innanzitutto a partire da dove io mi trovo, quindi la prima cosa fondamentale è dire a Just Eat dove sei. Oppure con l'app essere geolocalizzati. Esattamente, oppure con l'app essere geolocalizzati, e da quel momento io vedo una lista di tutti i ristoranti che effettuano consegna lì dove io mi trovo. Da questa lista posso scegliere, utilizzando una serie di criteri che possono essere principalmente la tipologia di cucina e poi una serie di altri criteri come il prezzo, la popolarità, e in base a questa lista poi raffinare la ricerca, arrivare a trovare il ristorante che mi interessa di più, e a quel punto entro in un menu e posso effettuare un ordine scegliendo gli ingredienti, scegliendo le tipologie di piatti, concludere, pagare e mi viene consegnato direttamente a casa, tutto tramite smartphone oppure tramite sito. Voi non vi occupate della consegna, cioè la consegna vera e propria viene fatta alla classica maniera, cioè facciamo l'esempio della pizzeria, e invece di chiamare la pizzeria e dire guardi mi porta 4 margherite, io vado sul sito, ma poi la consegna vera e propria la fa sempre l'omino della pizza, giusto? Il ragazzo della pizza. Nella maggior parte dei casi sì, noi lavoriamo principalmente con ristoranti che sono attrezzati per fare la consegna in autonomia. Da partire anche da quest'anno, nelle principali città italiane abbiamo anche reso disponibile un servizio tramite un partner che lavora con noi anche per effettuare la consegna per quei ristoranti che non sono attrezzati per farla autonomamente. Questo consente di poter scegliere non solo da chi normalmente effettua la consegna a domicilio, ma anche magari da quel ristorante che mi è piaciuto e dove io sono stato a cena, la cui cucina mi intriga e dalla quale vorrei poter ordinare un piatto che mi piace e farmelo consegnare a casa per una cena romantica o qualcosa del genere. Stiamo parlando di un fenomeno che è stato abilitato dalla tecnologia, dalle applicazioni su smartphone, e stiamo parlando di tanti servizi, perché ci sono tanti vostri concorrenti in Italia, nel mondo. Voi siete nati in Gran Bretagna, dove probabilmente anche l'uso della tecnologia favorisce molto di più la crescita di questi servizi. Ma giusto per avere un'idea di quanto questi servizi si sono evoluti negli ultimi espansi, in questi ultimi tempi, siete già in quante città in Italia? Attualmente siamo in oltre 150 città, quindi vorremmo poter portare il servizio in tutte le principali città italiane, ci stiamo lavorando. Sì, come stavamo dicendo, il servizio è nato nel nord Europa, quindi Danimarca, e si è espanso ed è diventato molto popolare soprattutto in Gran Bretagna, e negli ultimi anni Just Eat lo ha portato poi anche in altri paesi dove magari la tradizione del takeaway è meno sviluppata come l'Italia. Però è un fenomeno che si sta sicuramente sviluppando, dove la tecnologia è un abilitatore, no? La tecnologia è la vera leva, sì, che permette di trasformare un servizio tutto sommato abbastanza classico e tradizionale in un servizio più innovativo. Allora, stiamo parlando di la consegna a domicilio è una cosa vecchissima. Anche voi avete qualche anno sulle spalle, perché solo in Italia esistete da 4-5 anni, giusto? Esatto, sì. Però noto che in questi, non so se dire ultimi mesi o comunque sicuramente nell'ultimo anno, c'è un'esplosione di questi servizi. Perché? Che cosa sta succedendo? Ma diciamo che il mercato del food, del cibo, è stato paradossalmente uno degli ultimi a essere trasformato dalla tecnologia. Se noi pensiamo ad altri mercati, come ad esempio l'e-commerce di prodotti, di beni, di servizi, sono mercati che già quasi da decenni sono stati trasformati. I primi sono i viaggi. I viaggi, voli e alberghi. Ormai, esatto, prenotare un hotel o un viaggio o ordinare un libro o una macchina fotografica online è ormai una prassi consolidata anche in Italia. Mentre il mercato del cibo, dove io sto intendendo il cibo non solo quello di cui ci occupiamo noi come cibo a domicilio, ma più in generale il fare la spesa piuttosto che il farsi prenotare un ristorante, tutto ciò che riguarda il cibo è relativamente nuovo e questo lo rende particolarmente interessante. Il motivo per cui in questi ultimi anni si sta sviluppando molto ha due ragioni di fondo. Una è questa, è che è uno degli ultimi a essere intaccato dalla rivoluzione tecnologica. L'altro è la potenziale vastità di questo mercato, perché mentre io magari compro un libro, che so, una volta al mese o faccio un viaggio una volta al trimestre, tutti noi mangiamo due volte al giorno. Certo. Quindi l'opportunità comunque di utilizzare un servizio come legato al mondo del cibo è molto alta, la spesa la facciamo con grande frequenza e quindi anche l'opportunità che Just Eat ha di offrire un servizio così ha una frequenza potenzialmente molto alta, di qui l'interesse verso un mercato così interessante. Adesso ci fermiamo per pochi minuti, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Paglierini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Stiamo parlando di servizi, di piattaforme internet che mettono in collegamento i ristoranti o altre attività commerciali che portano a domicilio cibo di qualsiasi genere con i consumatori, e naturalmente internet è il luogo ideale per unire consumatori con servizi commerciali di questo genere. Ce ne sono tantissimi, io ho fatto un minimo di ricerca. Allora, Just Eat è sicuramente uno dei nomi più importanti, poi c'è Foodora, Food Racers, Deliveroo, Fodinhu, Movenda, poi servizi che invece fanno un po' di più, nel senso che si occupano di tutto, quindi non mettono solo in collegamento chi fa consegne, ma consegnano proprio con propri mezzi, con proprio personale, come ad esempio MyMenu, che è una startup che abbiamo intervistato anche nel 2024, oppure in Sicilia Social Food. Insomma, è un mondo che si sta veramente popolando di tante realtà, di tante startup. È con noi Daniele Contini, che è country manager di Just Eat in Italia. Voi, tra l'altro, a proposito di startup, avete acquisito una società che fa più o meno lo stesso vostro lavoro, che si chiama Pizzabox, era stata acquisita da tedeschi e poi l'avete comprata, e recentemente avete annunciato di averla acquistata. Verrà integrata o rimarrà un brand indipendente? Allora, noi abbiamo acquisito recentemente questa piattaforma di Pizzabox, che come forse saprete era una startup, ed è una startup di Bologna, nata dall'idea di alcuni ragazzi fuori sede che sono stati bravissimi e particolarmente innovativi a sviluppare questo servizio, che è diventato molto popolare nel giro di qualche anno. Quindi per noi è molto bello poter iniziare a lavorare con loro. Per il momento i servizi rimangono due servizi separati e continueranno a funzionare in parallelo. È chiaro che cercheremo di adottare delle sinergie. La prima sinergia che cercheremo di adottare è quella di mettere un po' a fattor comune i ristoranti e i servizi che offriamo, per poter aumentare la scelta, no? Perché poi alla fine il vero cuore di un servizio come quello che offriamo noi è poter dare, tramite una piattaforma tecnologica, la maggior scelta possibile. Certo, che è il motivo per cui uno usa queste piattaforme, perché altrimenti se io prendo, che ne so, la pizza sempre dallo stesso posto, beh, basta che faccia una telefonata, mi conoscono, dico venite in via Garibaldi 13, portatemi 4 margherite. Esattamente, mentre in realtà quello che è bello ed è interessante è la possibilità di dare alle persone la, la possibilità di sperimentare, quindi di poter scegliere cucine diverse, cucine etniche, no? Ad esempio dall'indiano piuttosto che il cinese, il sushi, quindi io posso decidere di mangiare qualcosa di diverso che non sono capace di cucinarmi o che non ho voglia di cucinare e sperimentare cose diverse. Quindi maggiore è la scelta e più è facile l'utilizzo. E questo è quello che vogliamo fare, quindi la logica di questa operazione va nella direzione di poter aumentare la scelta per i consumatori finali. Come fate i soldi? Allora, il nostro modello di business si basa sostanzialmente su una commissione, quindi noi siamo degli intermediari e quindi tratteniamo una commissione sugli ordini che vengono effettuati dai consumatori finali, dalle persone presso questi ristoranti. Questo è il nostro modello, quindi, di business si basa su questo. Facile, facile. Esatto. Però uno potrebbe pensare, il modello di business è facile. Devo fare una piattaforma che, così come per gli hotel, mette in contatto il ristoratore con il cliente potenziale. E in effetti ci sono tanti altri competitor, quindi uno potrebbe pensare, è sostanzialmente facile, cioè come ci si distingue e come si innova? Cioè anche dal punto di vista tecnologico, come si fa ad essere diversi? Perché i ristoranti sono quelli, tra l'altro non chiedete l'esclusiva, quindi io vedo che anche a Milano ci sono ristoranti che hanno 3, 4, 5 servizi di piattaforme dalle quali io posso prenotare. Sì, diciamo che il nostro punto di forza resta quello soprattutto della scelta, quindi di poter dare la maggior scelta possibile, e in questo senso la piattaforma che noi abbiamo costruito va nella direzione di semplificare questa scelta, perché a volte l'avere semplicemente tanta scelta non è di per sé un valore, se poi è difficile orientarsi all'interno di questa scelta. Quindi io credo che quello a cui noi stiamo lavorando è non solo dare la maggior scelta, ma aiutare le persone a scegliere secondo i loro gusti, secondo le loro disponibilità, e questo è là dove la tecnologia può dare effettivamente un aiuto. Quindi algoritmi? Sì, algoritmi e anche, diciamo, ad esempio abbiamo un sistema di rating, di valutazioni, per cui ognuno può esprimere una valutazione sul cibo, sulla velocità di consegna, sulla cortesia di chi ha consegnato il prodotto, quindi ci sono tutta una serie di elementi che aiutano la scelta. E non solo, un altro elemento è quello, ad esempio, legato all'innovazione, è quello dei pagamenti. Questa è un'industria tipicamente molto tradizionale, come si diceva prima, che esiste da molto tempo, è tipicamente affidata alla carta, al telefono. Quindi quello che noi stiamo portando è una digitalizzazione che permette, ad esempio, di poter ordinare online sicuramente, ma anche di poter pagare online. Certo, quindi non avere neanche più il problema di guarda, 50 euro, c'hai il resto, no vabbè, tienti il resto, esatto. Che può essere anche, insomma, cortese lasciare la mancia, però a volte è un problema. Quindi questo è sicuramente un elemento. Si può pagare con carta di credito? Si può pagare con carta di credito, con PayPal, e quindi stiamo cercando anche poi di guardare agli ulteriori sistemi innovativi. Però l'idea è anche di digitalizzare i pagamenti, no? Quindi di portare anche più innovazione anche sull'aspetto della comodità dei pagamenti. Certo, smaterializzare questa parte della consegna a domicilio. Come controllate o affidate tutto alla piattaforma, al mercato, cioè ai consumatori che danno questo rating, che il servizio sia conforme alle promesse, cioè che un ristorante consegni effettivamente entro tempi ragionevoli, che non si dimentichi la consegna, che sia cortese o che porti effettivamente quello che è stato ordinato? Perché è vero che voi fate da tramite, però un po' di responsabilità anche a livello di immagine ce l'avete, no? No, assolutamente, su questo noi ci mettiamo la faccia, quindi noi abbiamo un servizio clienti aperto a tutti, quindi per qualsiasi cosa che non dovesse andare per il verso giusto siamo posso disponibili, si può telefonare, sono molto bravi a risolvere i problemi, quindi aiutano poi le persone se qualcosa dovesse andare storto e sono per fortuna pochi casi, ma siamo pronti a gestirli. Cosa succede dalla parte del ristoratore? Quindi il ristoratore intanto come riceve gli ordini, che tipo di rapporto ha con voi? Allora, per il ristoratore Just Eat è un grande vantaggio, perché mentre prima doveva magari stare al telefono un sacco di tempo a prendere ordini, tipicamente il telefono poi magari è occupato, quindi magari non prende l'ordine perché mentre sta telefonando con una persona c'è qualcun altro sotto che cerca di chiamare, noi diamo ai ristoratori un dispositivo tecnologico tramite il quale lui non ha più bisogno di stare al telefono tutto il tempo, ma riceve automaticamente in tempo reale gli ordini su un dispositivo, può accettarli, può decidere entro quanto tempo consegnarli in maniera molto semplice, quindi per lui è una grossa semplificazione. Quindi è proprio un hardware con dei tasti? È un hardware con dei tasti. Se pensiamo poi che in quota parte alcuni dei professionisti che lavorano nel mondo della ristorazione magari sono persone che non parlano perfettamente l'italiano, in questo caso questa è un'ulteriore semplificazione, certo, per evitare incomprensioni, no? Paradossalmente una delle storie che ho sentito è che questa startup di Bologna era nata proprio da una di queste incomprensioni: avendo ordinato una pizza al telefono ne era arrivata una diversa, e lì è nata un po' l'idea di dire: ma allora se facciamo un servizio innovativo e tecnologico, questo tipo di incomprensioni si ridurranno, no? Che è quello che cerchiamo di fare. Sì. Voi avete costruito questa piattaforma in quanti paesi oggi è attiva? Oggi è attiva in 13 paesi. In Europa? In Europa, sì, non solo. Abbiamo una presenza anche in Australia, in Brasile, persino in Nuova Zelanda, quindi diciamo è abbastanza vasta in questo momento. E l'Italia che tipo di mercato è confrontato con gli altri dove voi siete attivi? L'Italia è un mercato importante, è un mercato nel quale Just Eat vuole investire. Attualmente Just Eat a livello globale ha 60.000 ristoranti associati, in Italia ne abbiamo oltre 3.500. È un mercato ancora con un potenziale da esprimere, evidentemente il valore che noi stimiamo per il mercato italiano è di circa 2 miliardi di euro per quanto riguarda il food delivery. Quindi il valore del cibo consegnato a casa è di 2 miliardi di euro all'anno? Esatto, il valore di questo mercato è di circa 2 miliardi. Se lo raffrontiamo con l'Inghilterra è più piccolo, in Inghilterra è oltre 10 miliardi di euro, però è un mercato che sta crescendo anche in Italia a velocità diverse, evidentemente nelle grandi metropoli cresce più rapidamente, nei piccoli centri un po' meno, però si sta sviluppando. Che percentuale chiedete ai ristoratori? Cosa vi trattenete? Questo non posso dirlo, certo. Perché però dipende, diciamo da... che uno può farsi delle, diciamo, uno dice: se vale 2 miliardi, ci sono un tot di società che stanno operando in questo settore, uno può fare abbozzare delle percentuali e capisce che insomma c'è un grande business. C'è un grande potenziale di business, nel senso che in questo momento bisogna anche investire molto per sviluppare questo mercato, che è quello che noi stiamo facendo, perché non dimentichiamoci che è un mercato ancora molto offline. Vi considerate una startup? Ci consideriamo ancora in parte una startup, nel senso che il mercato va sviluppato, quindi noi vogliamo essere gli attori di questo sviluppo e stiamo investendo in questa direzione, però è un mercato appunto che confidiamo crescerà nel futuro, però ci sono molti fattori che aiutano. Ad esempio, uno che è interessante è che, ad esempio, secondo un rapporto dell'Istat, le donne italiane sono quelle con meno tempo libero d'Europa. E questo dato è interessante. Che è incredibile. Magari sono le più brave in cucina, ma non hanno tempo per esprimersi. Dobbiamo fare qualcosa per questo. Just Eat gli dà una mano da questo punto di vista. Senti, no? Sono più i ristoranti che fanno solo consegne a domicilio, o che a questo punto non li chiamerei nemmeno ristoranti, oppure ristoranti tradizionali che hanno affiancato alla loro attività principale anche quella della consegna a domicilio, quelli che sono soci vostri? In questo momento la maggior parte sono ristoranti focalizzati sulla consegna a domicilio, quelli che fanno la maggior parte dell'offerta, però stanno crescendo molto anche i ristoranti appunto con un servizio di sala che hanno affiancato alla consegna a domicilio, che hanno affiancato al servizio in sala anche la consegna a domicilio. Alcuni intuendo che aprire alla consegna a domicilio è qualcosa che di fatto segue quello che i loro clienti vogliono, perché magari io come cliente vado a cena da loro, poi però per mille motivi non posso tornare, ma vorrei comunque riprovare il loro servizio e quindi mi piace l'idea di farmelo consegnare a casa. Ad esempio, io personalmente ho figli, dal mio punto di vista personale a volte in questa fase della vita andare al ristorante può essere particolarmente complicato avendo i figli, e quindi ad esempio non poter mangiare a casa anche costoso, perché mette poi d'accordo tutti, no? Certo, è più facile. Fatto 100 il numero di ristoranti che potenzialmente potrebbero digitalizzarsi, comunque entrare in una piattaforma come Just Eat, quanti sono, se guardi al mercato italiano, che hanno già capito le potenzialità di internet e naturalmente anche della consegna a domicilio? Siamo ancora a percentuali basse o molto alte? Allora, tra i ristoranti tradizionali siamo agli inizi di questo fenomeno, quindi noi è un fenomeno che stiamo sviluppando. Ci sono ristoranti più innovativi che hanno capito l'opportunità della consegna a domicilio e si sono attrezzati, perché poi è importante anche attrezzarsi, no? Certo, per garantire quindi, poi un servizio. Per garantire un servizio eccellente. Ci sono alcuni ristoranti, ad esempio, che hanno affiancato alla cucina principale che hanno un'altra linea esclusivamente dedicata alla consegna a domicilio, e questo gli consente di essere veloci, di poter dare un servizio efficiente e una buona esperienza, per cui alla fine chi ordina riceve il cibo velocemente, in ottime condizioni, e quindi fa un'esperienza sostanzialmente positiva. Quindi molti ristoranti innovativi hanno capito questo, hanno capito che per loro la consegna a domicilio è un'opportunità sia di continuare la relazione con i clienti che hanno già, sia di sviluppare la relazione con clienti che non hanno. Molto bene, io ti ringrazio Daniele Contini per essere stato con noi. Buon Grazie. Lavoro, in bocca al lupo, perché anche dopo questa acquisizione di queste startup, ricordiamo che avete speso 125 milioni? A livello globale, sì. Sì. Molto bene, a presto, grazie. Grazie. Un'altra notizia che è stata molto commentata questa settimana riguarda Diego Piacentini. Alcuni dei nostri ascoltatori lo ricorderanno, l'abbiamo intervistato alcune volte a 2024. Chi è Diego Piacentini? Allora, diciamo chi sarà, perché dal 17 agosto Diego Piacentini sarà il commissario straordinario del governo italiano per il digitale e l'innovazione. Dovrà coordinare, razionalizzare, velocizzare strutture e progetti già avviati e probabilmente forse lanciarne anche di nuovi. Allora, Piacentini si prenderà una pausa di 2 anni da Amazon, dove attualmente è capo dei mercati internazionali ed è uno dei numeri 2 del fondatore Jeff Bezos. Insomma, è uno dei manager di maggiore successo ad Amazon, lavora lì dal 2000. Sicuramente non sarà facile trasferire la cultura di un'azienda dot-com americana nella pubblica amministrazione italiana, ma Piacentini, che oggi ha 56 anni, parte da una eccellente esperienza e visione di quello che accade nel mondo digitale, in particolare sulla costa occidentale dagli Stati Uniti, dove lavora da molto tempo, da una 30 anni, è stato 16 anni in Amazon, dopo essere diventato Vice President anche in Apple. Allora, lavorerà a titolo gratuito, ma questa è insomma la parte forse solo di curiosità meno importante di tutto questo progetto, anche perché non dovrebbe essere un problema lavorare gratis per uno che nel 2014 ha dichiarato un reddito di quasi 7 milioni di dollari. Io sono tendenzialmente contrario a che le persone lavorino gratis, perché le persone vanno pagate, bisogna vedere se meritano lo stipendio che gli si attribuisce. Comunque, vabbè, questa è una considerazione che non riguarda il futuro digitale del nostro paese. Ma dicevo, ci sono già dei progetti avviati. Allora, quali sono i progetti su cui Piacentini dovrà dare una mano allo Stato italiano? Ne ho parlato con Paolo Barberis, che è il consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'innovazione e ha ideato la strategia digitale del governo italiano. Paolo Barberis è un nome noto, molto importante nel mondo digital italiano, una persona con molta esperienza, è stato il creatore di Dada, quindi sicuramente un nome importante nella internet quando è nata buona parte della rete internet dei servizi in Italia. Ma parliamo di quello che sta facendo Barberis e di quello che poi dovrà fare, anche di cui dovrà occuparsi anche Piacentini. Il consigliere per l'innovazione, del presidente del consiglio, sta disegnando il piano, appunto la strategia del piano per l'Italia digitale, e che quindi poi abbiamo presentato dopo un anno di lavoro circa a novembre del 2015. È un piano sostanzialmente che si compone di 4 aree fondamentali: Italia Login, che è la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, poi c'è tutto il tema delle infrastrutture di paese, la banda ultralarga e il piano dei data center. Nella terza area c'è tutto il mondo dell'insegnamento dell'alfabeto digitale, quindi il grande tema del digital divide, il suo superamento, quindi cercare di fare tutti i progetti e operazioni appunto per insegnare a tutti gli italiani sia a andare in rete nella maniera più consapevole ed efficace possibile, sia a usare appunto la rete per anche la parte, diciamo, di imprese che poi nell'area 4 trovano proprio la parte di piano più interessante per loro, che è l'area della competitività digitale, cioè come dalle start-up alle PMI innovative all'industria 4.0, come come il paese sta ridisegnando il proprio sistema di imprese, il proprio sistema industriale per far fronte all'impennata tecnologica a cui stiamo assistendo. Mi sembra molto interessante, non che non lo siano gli altri, ma molto interessante, molto concreto il progetto di Italia Login. Un'unica credenziale, quindi user ID e password, che è un modo che tutti i cittadini conoscono molto bene, perché per tutti i servizi online abbiamo bisogno di queste credenziali per entrare in tutti i servizi, ma voi avete giustamente deciso che almeno per la pubblica amministrazione lo user e la password debbano essere uniche, ce ne deve essere una sola, perché il cittadino ha una unica identità nei confronti dello Stato. Mi sembra molto interessante. Se io penso alla vita di un cittadino, uno ha una credenziale per entrare nei servizi del comune, una password user per entrare nell'agenzia delle entrate, per entrare all'INPS, per altri servizi, insomma ha veramente una lista lunghissima di credenziali, e invece dovrebbe essercene una sola, e questo è l'obiettivo di questo progetto che si chiama Italia Login, che partirà a breve, cioè le prime sperimentazioni concrete partiranno a breve, quindi ben prima che il commissario arrivi. Assolutamente, il progetto di un unico diciamo username e password per loggarsi all'interno di tutti i servizi online, perché il vero cuore del tema è parlare di servizi online, non parlare di siti web, no? Cioè noi dobbiamo usare la rete perché sia sempre di più uno strumento e un servizio, e tutte le cose messe a disposizione devono essere gli strumenti che portano, diciamo, ad operazione, a semplificare l'operazione. Ecco, questa parte è già un progetto in corso da molto tempo e partirà in questi giorni, ed è il primo pezzo di quattro forse pezzi fondamentali di Italia Login, che sono sostanzialmente il punto unico, cioè le credenziali uniche di accesso. Poi c'è tutto il tema di un unico database dei cittadini, la famosa anagrafe nazionale della popolazione residente, che sarà appunto una vera e propria anagrafe in cloud, che i cittadini quindi possono trovare le proprie informazioni in rete in maniera sempre aggiornata. Una parte importante che è la comunicazione fra le varie funzioni del paese e il cittadino, e quindi il sistema di notifiche e di interazione, e poi il quarto pilastro molto importante, che è il sistema dei pagamenti unificato, per semplificare finalmente il tema dei pagamenti in un unico luogo con delle uniche credenziali. Ecco, queste quattro parti sono un po' le parti che più centralmente si stanno sviluppando. Intorno un ecosistema coerente, ad esempio se vedete design.italia.it è un luogo online appunto in cui trovare tutte le specifiche su come costruire siti web e applicazioni secondo le linee guida della nuova identità di paese che è stata varata lo scorso anno. E questa era la voce di Paolo Barberis, consigliere per l'innovazione del presidente del Consiglio Matteo Renzi. È una persona che parla come noi di 2024, che parla come il mondo digitale, ed è sicuramente ammirevole che uno entri a contatto con la pubblica amministrazione che troppo spesso non parla questo linguaggio, ed è certamente molto complicato, molto difficile. Bisogna avere i muscoli e anche molta pazienza per non perdersi d'animo, e quindi noi siamo contenti che questo possa avvenire, sperando anche che arrivino poi dei risultati seguendo le linee che sono state descritte. Dunque, i progetti sono sicuramente interessanti, poi la esecuzione non è sicuramente facile, anche perché chi pensa in modo moderno, digitale, si deve scontrare con una pubblica amministrazione spesso fatta anche da funzionari che, pur di non cambiare, mettono dei paletti e costruiscono delle barriere. A proposito di digitalizzazione della pubblica amministrazione, lunedì 15 febbraio prenderà il via il processo telematico in Cassazione. Potremmo dire che si completa il quadro della digitalizzazione del processo civile. Ne parliamo con Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore, della redazione Norme e Tributi, che si occupa molto spesso di questi temi. Alessandro, benvenuto. Grazie. Si completa un iter che è iniziato quanti anni fa? Nel 2009. Quindi un iter molto complicato, fatto di vari stop and go, di mezze retromarce, e di nuovi afflati in avanti. Sì. Diciamo che il 2015 è stato anche dal punto di vista numerico l'anno di definitivo lancio del processo civile telematico, quello che, come dicevi correttamente, va a completarsi a partire da lunedì in tutti i gradi. Io lo chiamo digitale, in effetti la legge dice telematico. Beh, siamo quindi sulla buona strada, cioè un risultato importante. Il fenomeno può essere letto su due distinti piani. C'è un piano numerico che appunto recentemente anche riassunto il Ministero della Giustizia e dice che il 2015 è stato l'anno del grande impulso del processo civile telematico. La media sono 50.000 atti depositati dall'esterno, cioè provenienza avvocati, 50.000 atti al mese, mentre sul versante magistrati sono stati prodotti 300.000 provvedimenti digitali al mese. Ovviamente non sono sentenze, perché ci sono anche tutti i provvedimenti, diciamo così, ordinatori. E questo sicuramente ha portato anche un beneficio alla riduzione dell'arretrato civile, che era di 5.200.000 procedimenti a dicembre 2013, due anni dopo è sceso di 1 milione di unità, quindi sono 4.200.000. Però questo è guardare un fenomeno solo dal punto di vista numerico. C'è un piano che è più complicato, dentro il quale inquadrare la materia, che è l'aspetto culturale della pubblica amministrazione destinataria di questi procedimenti. E qui il discorso si fa oggettivamente un po' più complicato. Perché, come sempre, dal dire al fare, cioè di mezzo il mare. Possiamo portare ad esempio un laboratorio, diciamo, molto avanzato, che è quello del Tribunale di Milano, uno dei primi a partire, anche prima delle leggi, nel 2009, e che oggi è molto avanti nello sviluppo del processo telematico. Tuttavia ci sono molte criticità. Per esempio il sistema di accesso informatico alla piattaforma, che era nata non agilissima alcuni anni fa, oggi è diventata un processo di richiesta di credenziali che a sviluppo, diciamo così, a Castello, rende molto problematico l'accesso ai magistrati, specie se vogliono lavorare contemporaneamente su più atti o sui due versanti di un unico procedimento. Questo implica che di fatto la carta è ancora molto in voga, perché in qualsiasi procedimento si tratti di civile, i giudici, e questo accade in tutti i tribunali d'Italia, chiedono sempre la copia cartacea di cortesia. Quindi succede che mentre da un lato si sta iniziando, e oramai appunto con la novità di lunedì anche che riguarda la Cassazione, oramai esiste un processo telematico, digitale, è vero che poi dipende dai tribunali, perché alcuni tribunali non sono completamente digitalizzati, però il processo generale civile è stato digitalizzato, però parallelamente esiste ancora la carta, gira ancora un sacco di carta. Sì, e senz'altro. Peraltro la convivenza su due binari, telematico e cartaceo, fino al 2017 esisterà di fatto un doppio binario anche per i procedimenti che devono andare ad esito, e anche perché nelle realtà più piccole ci sia questo trasferimento da carta al digitale. Poi, sempre per rimanere a Milano, per capire qual è la difficoltà culturale nell'entrare nel nuovo tipo di processo da parte della pubblica amministrazione, varrebbe per tutti l'esempio sui decreti ingiuntivi, che è un atto molto semplice che viene depositato quando si ha un credito certo esigibile, un contratto eccetera, e è stato digitalizzato da molto tempo. Tuttavia il magistrato riceve la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo 30 giorni dopo che viene inviato dalla casella di posta certificata. Non so in quali meandri si perdono, perché c'è anche la gestione della cancelleria e tutto, ma di fatto un decreto ingiuntivo emesso 35 giorni dopo in realtà avrebbe un ritardo tecnico di, diciamo così, di soli 5 giorni da versante magistratura. Sono piccoli esempi di prassi per capire come un conto sia decidere per legge una migrazione da piattaforma cartacea a piattaforma digitale, un altro conto è fare il salto culturale di un'intera pubblica amministrazione che non è abituata a ragionare per semplificazione, ma al contrario è abituata a ragionare per complicazioni. E con questo ti ringrazio per essere stato con noi e ti saluto, a presto. Grazie a voi, arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa versione podcast del nostro programma. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024 2024 @radio24.it. Mi trovate anche su Twitter, su Facebook, nella nostra pagina Facebook. Potete utilizzarla per commenti, potete scrivermi per suggerimenti, anche per tirarci le orecchie, succede e non sempre gli ascoltatori hanno completamente ragione, a volte ci sono degli scambi di email, poi ci chiariamo, ci sistemiamo, però sono sempre ben accette anche le critiche al programma se sono costruttive. Ci risentiamo la prossima settimana, vi ricordo che alla fine della prossima settimana ci sarà il Mobile World Congress con alcune novità che arriveranno anche da quella fiera, anche se devo dire che a detta di molti operatori, soprattutto sul lato smartphone, c'è un po' meno euforia da parte dei consumatori che continuano a comprare gli smartphone, ma sono un po' meno interessati alle novità, anche perché fino adesso di grande novità, almeno nell'ultimo anno, non ce ne sono state. Ma se guardiamo al più vasto mondo della telefonia mobile, della connettività, della Internet of Things Mobile, beh, sicuramente in quel campo, in quel settore, ci saranno molte novità. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.